Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sono usati da anni a bordo degli aerei e anche nel settore aerospaziale, ma solo di recente hanno cominciato ad essere applicati anche nell'edilizia. Parliamo dei materiali, o più correttamente dei sistemi termoriflettenti multistrato, grazie ai quali è possibile isolare pareti, coperture, ponti termici ed altro con uno spessore molto contenuto. Tuttavia c'è molta confusione anche fra gli addetti ai lavori su questi materiali e sul loro funzionamento. Così, insomma, noi ci facciamo spiegare tutto dal professor Marco Imperadori del Politecnico di Milano, dove insegna progettazione e innovazione tecnologica presso la Facoltà di Ingegneria Edile e Architettura e che è impegnato proprio nella sperimentazione di questi materiali. Per di più, Imperadori è una nostra vecchia conoscenza. Buonasera Imperadori, bentornato. Ciao Maurizio e buonasera agli ascoltatori. Allora Marco, prima di tutto descrivici brevemente questi materiali e quindi anche il loro principio di funzionamento. Allora, questi materiali sono dei multistrato, sembrano un po' delle coperte, delle paste sfoglie morbide, fatti di strati di alluminio, strati di poliestere, quindi strati plastici, e anche degli strati, ad esempio, in alcune soluzioni biologici, cioè lane animali, lane di pecora. Quindi delle lamine di alluminio alternate, sì, a questi strati molto sottili, qualche millimetro isolanti, sì, fatti con vari materiali. Complessivamente tutto insieme, tutto... diciamo, l'intero pacchetto arriva a un centimetro, ecco, un centimetro, okay, e mezzo. Questo materiale non è che abbia delle prestazioni, come dire, straordinarie di per sé, è all'interno di un preciso sistema che invece diventa una roba interessante. Sì, infatti devono essere posati secondo un sistema che implica una camera d'aria prima e dopo, grosso modo dello stesso spessore di questi strati, un centimetro e mezzo davanti e dietro, e a tenuta assoluta, quindi l'aria lì non si deve muovere. A quel punto questo, diciamo, pacchetto, questo sandwich fatto di aria e di questi strati di alluminio isolanti dà una prestazione interessante soprattutto sulla parte radiativa del calore, cioè il calore si trasmette, come sappiamo, per conduzione, convezione o per irraggiamento. In questo caso questi materiali lavorano molto bene sulla parte di irraggiamento e quindi impediscono in inverno che il flusso di calore e la radiazione se ne vada verso l'esterno, dove c'è una temperatura più bassa, e al contrario in estate, supponiamo di immaginare di essere in un sottotetto, ecco che la disposizione negli strati più esterni consente di riflettere il calore, quindi di evitare che questo venga accumulato dalle masse interne e quindi dagli spazi interni. Ecco, questo materiale è molto efficace, dicevamo, sulla parte radiativa del calore. In realtà poi questi due strati di aria che gli mettiamo davanti e dietro, un po' come dei doppi vetri, invece sono attivi sulla parte di convezione e anche un po' di conduzione, giusto? Per questo il pacchetto complessivamente funziona bene. Funziona bene, pensiamo anche che un materiale fibroso che isola bene, è un materiale a cappotto, diciamo, classico, e funziona perché imbriglia aria, per esempio, no? Certo, è come un maglione, certo, di cashmere. Noi ci mettiamo un bel maglione di cashmere, è talmente sottile che imbriglia l'aria, è l'aria che ci isola, non è come dire, certo, il materiale in sé, è proprio per il fatto che intrappolando aria riesce a isolare bene. Ecco, questi materiali mettono insieme sia queste couche d'aria, che sono sia interne agli strati che esterne in questi due meati d'aria creati, questi due intercapedini, che soprattutto poi la parte radioattiva per riflessione del calore. Ecco, comunque insomma possiamo dire, per fare un esempio, che sono appunto utilizzati a bordo degli aerei e quando si vola ad altezza di crociera, a velocità di crociera, è come trovarsi sull'Everest con 900 o 1000 km all'ora di vento, quindi evidentemente funzionano. Ecco, insomma. È così, sono tecnologie, proprio un trasferimento di tecnologia che viene dall'aerospaziale e che attualmente trova un mercato che chiaramente ha dimensioni e numeri molto più grandi, che è quello dell'edilizia e quello anche del recupero, e quindi sono estremamente promettenti. Vanno però posati con molta cautela, vanno ben sigillati, perché altrimenti è come avere un termos con un buco. Con un buco, a quel punto, perfetto, non funziona niente. No. Ecco, però dicevo anche inizialmente, c'è molta confusione a proposito di questi materiali. Mi sembra di capire, anche fra i tecnici, anche fra gli addetti ai lavori, che mettono in qualche caso proprio in dubbio che possano funzionare, ma soprattutto dicono c'è un problema di normativa tecnica, se ho ben capito. Sì, il problema c'è, infatti c'è anche molta discussione nei tavoli tecnici. Ecco, ce lo spieghi? Ad esempio, tra chi li produce. Sì, il problema è quello che un isolante classico viene facilmente testato. Io lo prendo, faccio una prova alle piastre calde e so quanto questo isola. Ecco, cioè vuol dire che prendo un pezzo di questo materiale, gli appoggio una lastra calda da una parte e una fredda dall'altra e vedo quanto calore passa per conduzione, perfetto, no? Sostanzialmente. Quindi in soldoni la prova è standardizzata così. La normativa non prevede dei test in situ, delle prove in situ, e quindi con un termoflussimetro riuscire a verificare un pacchetto e per analogia compararlo a un pacchetto fatto di isolanti classici. E quindi questo è un po' l'impasse. Quindi su questo ci aspettiamo che prima o poi esca una normativa adeguata, diciamo, a fare dei confronti. Secondo me sì, anche perché io non vedo grandi concorrenze tra questi sistemi, anche se le industrie a volte hanno diciamo usato strategie un po' aggressive di comunicazione. In realtà secondo me un isolante così floscio non è antagonista di un isolante rigido, pensiamo in copertura, possono bene andare insieme, così come sulle facciate o nei recuperi. Il fatto è che in Italia si isola poco e male, e questo è un po' il problema principale di base, ecco. Grazie Marco Imperadori. Grazie a voi. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.